Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, Stepo fa, dicono a Roma e dintorni. Ed è una sensazione che si sta facendo strada man mano che passano le ore, cioè che ci siano margini per ribaltare il pronostico della semifinale di giovedì sera. E cioè questa Germania-Italia che, vista 8 giorni fa, 10 giorni fa, a parte il fatto che poteva anche sembrare una chimera, ma sarebbe stata una partita chiusa, da giocare, ma insomma abbastanza chiusa. Invece, mano a mano che passano i giorni, le ore, si sta facendo strada appunto la sensazione che la si possa giocare praticamente alla pari o comunque con qualche... Poi c'è chi esagera, perché Petrucci stamane, il numero uno del CONI, dice: non vorrei essere nei panni della Germania. Beh, insomma, adesso non vorrei essere nei panni della Germania comincia a sembrare un po'. Abbiamo una nazionale numero uno, è vero, c'è qualche numero uno in nazionale, ma insomma, magari non esagerare. Ecco, questo potrebbe essere un piccolo problema, che non credo però riguardi la squadra, quindi non è un problema. Riguarda il tifo che, come sempre, va... o andrebbe tenuto un pochino sotto controllo. Stamattina ha scatenato il presidente del CONI, perché poi dice: Petrucci merita il pallone d'oro, Pirlo merita il pallone d'oro, e Pirlo è una lampadina, illumina tutto, per me è da pallone d'oro. Beh, qui già ci siamo un po' di più, dice: se fossi nella giuria lo voterei come pallone d'oro. E poi aggiunge una frase molto, molto bella e molto vera: nella sua storia, cioè di Pirlo, non di Petrucci, non c'è una dichiarazione mai fuori le righe, è sempre stato corretto ed educato in campo e fuori, è un bel esempio, è un campione non abbastanza reclamizzato. È curioso in effetti che alla sua non verdissima età Pirlo venga riconosciuto come campione per quella lucida follia del cucchiaio di domenica sera. Il Corriere della Sera stamane ha pubblicato, tra l'altro in maniera molto, molto evidente, molto divertente, un sunto dei tweet dedicati ad Andrea Pirlo per il cucchiaio. E, non so, Fabregas scrive: però che classe, ovviamente in spagnolo ha una S sola. Xavi, ne ho letture di Xavi che adesso non trovo più, però Piqué dice: Pirlo is just class. Valentino Rossi: che spettacolo quel cucchiaio. Owen: Pirlo è un gran giocatore. Nesta: grande Pirlo, grazie Pirlo. Van Persie: Pirlo, punto esclamativo. E c'è, eccolo Xavi Hernandez: che gran penalti di Pirlo, fenomeno, scrive. E insomma, Pirlo, Xavi è un, potremmo dire, un rivale, no? In un certo senso, perché è un rivale per la formazione ideale di questi mondiali, che tra l'altro ha già trovato un'anticipazione stamane sulla Gazzetta dello Sport a firma Paolo Condò. E questo è interessante, perché ha tirato fuori i migliori fino ad ora, ruolo per ruolo, e magari dopo ne discutiamo insieme. 800 24 00 24. Al momento, a parer suo, la formazione ideale potrebbe essere Buffon, ma ci sono alternative, cioè ci sono 3 giocatori per ruolo. Comunque i titolari sarebbero Buffon, Johnson, l'esterno destro dell'Inghilterra, Hummels, il centrale tedesco, Sergio Ramos e Jordi Alba, la cerniera di sinistra difensiva del Real e del Valencia, forse prossimo Barcellona. A metà campo Chiedira, Pirlo e De Rossi, e davanti Iniesta alle spalle di Ronaldo e di Gomez, il centravanti tedesco. Beh, potrebbe essere in effetti una discreta formazione. E poi, ripeto, vediamo anche le alternative. Notizie: per ora poca roba di giornata, perché è ancora presto, ma il recupero di Chiellini in effetti sembra possibile, non ancora probabile, ma davvero possibile. E allora Capello dice ai microfoni di Sky, per esempio, che il recupero di Chiellini per la sfida contro la Germania sarebbe davvero molto importante. Più tardi sentiremo Fabio Capello. Adesso io comincerei da Prandelli e dalla sua idea di calcio propositivo. È un percorso molto lungo, ma sentiamo questo tipo di responsabilità, questa voglia veramente, perché abbiamo le capacità. Noi, io sono convinto che non dobbiamo dimenticare il nostro passato, ovviamente, non dobbiamo dimenticare come abbiamo fatto raggiungere i titoli, eccetera. E questa è una cosa che rimane nella nostra memoria, nel nostro modo di essere. però abbiamo anche la capacità di fare qualcosa di più, di fare un calcio propositivo, di fare un calcio che in questo momento siamo in grado di fare. Se il ranking UEFA a livello stagionale siamo 17esimi, vuol dire che c'è qualche problema. E noi per forza di cose, se non vogliamo vedere gli europei mondiali fra qualche anno in televisione tutti, bisogna darci una mossa a tutti e cercare di fare un calcio propositivo. I giovani vogliono vedere questo modo di stare in campo, questo coraggio, questo entusiasmo. Beh, è una bella analisi questa, indubbiamente. Oh, Alessandro Vittorio Veneto trova una cabala che sinceramente fin qui non avevo pescato, e cioè scrive: campioni del mondo nell'82 dopo 44 anni, dal 68 a oggi, ultimo, unica vittoria del campionato europeo, sono passati per l'appunto 44 anni. Non è male questa, caro Alessandro, nel caso andasse a finire così, le verrà riconosciuta la paternità di questa statistica, che sinceramente finora non avevo letto da nessuna parte. Poi c'è chi si avventura, Said da Ferrara, si avventura già in diagnosi o in prognosi tattiche, la squalifica di maggio, la Germania spinge Podolski da quella parte, allora bisognerà stare molto attenti alla fascia destra dove raddoppia Ozil, ma Ozil raddoppia anche sulla fascia sinistra, se per quello è... Ozil è un giocatore da prendere con le molle, mi pare che le chiavi del gioco tedesco siano lui e Khedira, perché Khedira davvero è un eccellente perno di centrocampo, credo che rappresenti nella Germania un po' quello che rappresenta De Rossi nell'Italia, così come caratteristiche tattiche, tecniche, anche come temperamento e come capacità di inserimento. E allora, a quella statistica di Alessandro Vittorio Vento, vediamo cosa risponde immediatamente in tempo reale Franco Piantanita. La sua postazione: occhio però che la Germania ha sempre vinto l'europeo l'edizione dopo averlo perso in finale. Quindi ha perso in finale nel 2008 con la Spagna. Vabbè, insomma, ce n'è evidentemente per tutti i gusti. È solo un'illusione, stavolta ci danno una mazzolata, scrive Davide da Como, e anche questa è un'opinione rispettabilissima, che io non trascurerei in prospettiva. C'è un problema di calendario, su questo non c'è dubbio, perché il fatto che la Germania possa disporre di 6 giorni di riposo dopo la Grecia, tra l'altro, dopo 90 minuti con la Grecia, e l'Italia di soli 4 dopo 120 con l'Inghilterra, effettivamente tanto bello non è. Sentiamo Prandelli su questo calendario. Questo è un handicap non indifferente, perché praticamente ci giochiamo il 50% di recupero su 5 giorni e sono veramente pochi e tanti come differenza tra noi e loro. È un problema che l'UEFA deve valutare nei prossimi europei. O prolungano il periodo, oppure devono trovare una forma diversa, perché giocare una semifinale con questa disparità non è un sinonimo di spettacolo. E questo è vero, e tra l'altro sì, ho qua una tabella che raffronta le formule dei riposi in più o in meno nelle ultime edizioni di mondiali ed europei. C'è Davide da Como che dice: all'inizio gli europei che li gioco all'otto io questi numeri, 38, 44, 68, 82, vabbè, andiamo avanti così a farci del male se lo fa Beppe, che scrive: se in finale battiamo la Spagna rimpiangeranno di non averci eliminato col biscotto. Fantastico. Tra poco spazio ai vostri interventi, volevo ancora darvi conto per l'appunto di questo di fare un raffronto nelle ultime edizioni mondiali europei sui giorni di riposo in più o in meno. Allora, ai mondiali, sia nelle edizioni 2006 che 2010, le squadre che si sono affrontate in semifinale avevano giocato i quarti nello stesso giorno. Per esempio, Germania-Argentina e Italia-Ucraina avevano giocato il 30 giugno 2006, uno alle 17 la Germania e uno all'Italia, alle 21 l'Italia. Negli europei c'erano sempre stati un massimo di 24 ore di differenza tra l'impegno dei quarti e quello di semifinale. Esempio, il 19 e 20 giugno 2008 i due quarti di finale si erano giocati, da cui usciva la semifinale il 25 giugno, quindi una squadra aveva 6 giorni di riposo e l'altro 5. Nel 2012, per evitare che in semifinale si incontrassero squadre già avversarie nel girone, ed era possibile fino al 2008, hanno cambiato gli accoppiamenti ai quarti, e fin qui niente di male. Ma la cosa assurda e che non si decide più una semifinale per volta, quindi due quarti di finale a distanza di un giorno, ma una semifinalista per volta, palleggiando da una parte all'altra del tabellone, in un certo senso. Qual è il risultato? Il risultato sono queste 48 ore di riposo in meno per Spagna e Italia, che sono oggettivamente penalizzate, e 48 in più di conseguenza per il Portogallo e la Germania. Bisogna far gol con i tedeschi, no? Perché, perché i tedeschi finora in quattro partite ne hanno segnati 9. È vero che 4 erano per la Grecia, ma insomma sono pur sempre 9 gol in 4 partite, di cui 8 su azione e 1 soltanto su calcio piazzato, quello di testa di Klose sull'uscita a vuoto del portiere, anzi del citofono greco. L'Italia al contrario ha segnato 4 soli gol, cioè meno della metà dei tedeschi, e 3 li ha sfruttati da calcio piazzato, uno direttamente da Pirlo in porta e con la Croazia, e 2 contro gli irlandesi da calci d'angolo battuti dallo stesso Pirlo. Quello dei pochi gol è un problema. Sentiamo ancora Prandelli. Io vorrei leggere tutte le partite uno score di questo tipo. Se una squadra riesce a tirare in porta 30 volte, su 10 partite ne vince 9. È una squadra che è consapevole di quello che sta facendo. È una squadra che cresce partita dopo partita, è una squadra che ha la voglia veramente di misurarsi, la voglia di confrontarsi con le grandi squadre giocando al calcio. Forse l'aspetto più importante di queste gare è stato proprio questo, il coraggio di giocare, il coraggio di provare. Il calendario delle partite era noto dall'inizio, scrive Giuseppe da Milano, bisognava dirlo subito che era penalizzante e non adesso visto che ci tocca, ma questa stortura in effetti era stata vista subito, dopodiché adesso non è che uno dice no, io non gioco, abbiamo 2 giorni di riposo in meno, non gioco, faccio una protesta ufficiale all'UEFA e magari ritiro l'ambasciatore in Polonia o in Ucraina. Nessuno sta dicendo questo, si sta semplicemente rilevando Prandelli per primo, ma poi è un dato oggettivo che riposare 4, riposare 6 c'è una bella differenza. Riccardo Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, sarò molto breve, Garanzini. Sì. Il problema dei gol dell'Italia. Fino adesso l'Italia ha sempre segnato, non è mai partita ad handicap. Ho paura che con questo attacco, se prendiamo il gol, la vedo molto dura. Grazie, aspetto da lei una risposta. Ma sì, difatti, non è vero. Cioè, l'Italia è andata in vantaggio con la Spagna. È andata in vantaggio con la Croazia e si è fatta rimontare 2 volte. Poi non ha più segnato, non ha più né segnato né preso gol né con l'Irlanda, sì, no, con l'Irlanda sì chiaramente, ma insomma c'è stato il problema della rimonta eccetera, con l'Inghilterra non ha segnato e quindi non è ancora caduto, vai sotto e vediamo come si mette, può darsi che non sia la situazione, anzi con la Germania non sarebbe certamente la situazione ideale, si cercherà di evitarla, evitarla come? Proteggendo un po' di più una difesa che io personalmente non toccherei, perché per come ha giocato contro gli inglesi è vero che l'attacco tedesco è molto più forte di quello inglese, però è anche vero che Barzagli, Bonucci, Abate, forse Balzaretti un po' più da proteggere da quella parte, perché Johnson per un po' ha discretamente imperversato nella prima parte della partita. No, toccherei, ma è chiaro che l'atteggiamento di De Rossi, sperando che ci sia perché è l'uomo chiave, l'assenza di De Rossi sarebbe molto penalizzante per l'Italia. De Rossi, Marchisio in particolare, e forse anche l'altro centrocampista che non sia Pirlo, e cioè o Montolivo o potrebbe tornare buono Motta in un ruolo da playmaker arretrato. O da centromediano metodista in caso di assenza di De Rossi evidentemente dovrebbero, anzi dovranno stare un pochino più a protezione della difesa rispetto a quello che si è visto nelle ultime partite. Carlo Trieste, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io volevo sapere la sua analisi sul fatto che ci sono pochi italiani che seguono la nostra nazionale, perché mi sembra sia stata fatta l'interpretazione legata a crisi, ma questo non corrisponde alla realtà dei fatti se pensiamo che la stessa crisi c'è anche in Irlanda, in Grecia, in tanti altri paesi. Mi sembra invece vada accomunata a un'altra falsa interpretazione, che è quella che dice che ci sono pochi spettatori in Serie A, legato al fatto che ci sono gli stadi fatti male, vecchi e così via. Io in realtà ritengo che gli spettatori italiani siano un pochino disillusi e molto più competenti di quello che si pensa, perché il calcio che noi vediamo, siamo costretti a vedere, è un calcio di spesso giocatori a terra, punizioni in grande numero e rallentamenti del gioco. Non faccio considerazioni sulla correttezza dei risultati, ma anche su questo si potrebbe dire molto alla luce di certe sentenze che stanno venendo fuori. Io penso quindi che gli italiani vadano poco, perché da un lato vedono un brutto calcio in Italia e talvolta un calcio falso. Diciamo. Non mi torna assolutamente questa analisi, perché allora a maggior ragione potrebbero risparmiare sugli abbonamenti per il prossimo anno o sui biglietti o su, appunto sul calcio da andare a vedere in casa nostra, e andare a vedere questo che tutte queste magagne non ce l'ha, che si gioca in stadi belli oltretutto, e questo mi sembra molto da sottolineare, che è un calcio estremamente corretto, perché queste partite sono di grande rara correttezza. Io non mi ricordo qual è stata una delle ultime, poteva anche essere Germania-Grecia, mi pare che insomma, ho visto, dopo un po' di minuti ho notato che non c'era ancora stato un fallo, e allora ho cominciato a guardare l'orologio, e se non ho sbagliato, ma non credo, il primo fallo di gioco è stato al 21esimo minuto del primo tempo, che è una cosa di una rarità assoluta. Ma tutte le partite sono corrette, perché fino adesso non si è visto davvero niente di sgradevole in campo, e questo è indubbiamente un valore in più. Domenico, Bari, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Per quanto riguarda Pirlo, secondo me grande campione, tutto quello che vogliamo, fatto vincere lo scudetto alla Juventus, però secondo me, tirando quel cucchiaio ai calci di rigore, che era una partita decisiva, o dentro o fuori, secondo me è stato un grosso rischio. Io volevo sapere, secondo lei, se quel rigore veniva parato. Oggi, secondo me, Pirlo stava in croce. Grazie, l'ascolto per radio. Ah, sicuro, Domenico, su questo può giurarci. Se il portiere solo ha un vaghissimo presentimento, tarda un istante a buttarsi, glielo stoppa con la coscia, si fa una grande risata e a quest'ora stiamo tutti ricorrendo Pirlo con Randello in giro. Ma questa è la differenza che passa sempre tra il colpo folle e geniale che riesce e il colpo folle e geniale che non riesce. Cassano una volta, me lo fa venire in mente il suo accento, non per infierire su Cassano, ma Cassano una volta, ricordo da lui un cucchiaio col portiere che lo para col petto o qualcosa del genere, e risate omeriche per lo stadio intero e poi in televisione. Insomma, questo succede, può succedere. Non so chi avrebbe calciato in quel momento un rigore come Pirlo, lui è venuto in mente e è stato molto bravo, e gli è andata indubbiamente anche bene, ma evidentemente lo studio psicologico suo di questo portiere, che stava facendo un po' il saltimbanco, l'aveva portato a concludere che avrebbe battezzato un angolo. Aveva in effetti battezzato quello dove fino a quel momento tutti avevano calciato, perché tutti avevano calciato alla destra del portiere fino ad allora, e hanno continuato dopo per la verità. E l'unico che ha calciato dall'altra parte è stato poi l'inglese, che ha sbagliato il rigore praticamente decisivo, quello prima di quello di Diamanti, se no tutti hanno calciato in quell'angolo lì. Andiamo avanti dunque. L'home page della Bild è sicura che Schweinsteiger gioca giovedì sera, sembrava in forse, invece dovrebbe recuperare. Allora sentirei ancora un ascoltatore e poi vi do queste nomination di Paolo Condò sui primi tre per ruolo sino a qui all'Europeo, e poi ne discutiamo insieme. Filippo, Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. No, io volevo tornare sulla partita di con la Germania per dire che secondo me Prandelli è stato bravo. Bisognerà cambiare atteggiamento, perché io mi aspetto che la Germania attacchi e non faccia come l'Inghilterra, e quindi io vedrei molto bene Italia in versione contropiede, quindi rispolvererei Di Natale. Mi sembra che Di Natale possa essere utile in una parte come questa. Cassano a me francamente con l'Inghilterra non è piaciuto, anche a me, a parte quell'assist per di test, però per il resto non si è visto. L'avrei sostituito un attimo prima, ma Prandelli è stato bravo secondo me anche a cambiare, no? Con la Spagna, atteggiamento, certo. E secondo me con la Germania, che non credo che ci aspetti, non lo credo, potrebbe, che è un brevilineo, un rapido, un contropiedista, perché non abbiamo quelli che, nessuno che possa andare a fare la guerra su quelli aerei, no? Filippo, io penso a Di Natale prima punta, a Balotelli seconda punta e non più, o comunque alternati tra loro, e a Giovinco primo cambio offensivo. Questa è l'idea che mi sono fatto, e poi certamente non sarà così. Allora, secondo la Gazzetta dello Sport, il miglior portiere finora è Buffon, seguito da Casillas e da Cech. Cech ho qualche riservina, perché ha fatto grandi parate, ma ha fatto anche una paperazza, di quelle da non discutere. Johnson, il primo esterno destro, con Debussy e Piszczek della Polonia alternative. Hummels e Ramos centrali, alternative Bonucci, Terry, Bruno Alves del Portogallo molto forte e Barzagli. Jordi Alba esterno sinistro con Lam e Coentrao alternative. A metà campo, beh, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. I titolari sono Chiedira, Pirlo e De Rossi. Le alternative sono Busquets, grande fino adesso, Meireles, Xavi ovviamente, Modric, Xabi Alonso, grande anche lui fino adesso, e Gerrard. Davanti Iniesta come suggeritore, alternativa Ozil e Iracek, grande cieco, in effetti bravissimo anche lui. Io forse tra Iniesta e Ozil in questa finale non saprei scegliere, ma sì, facciamo Iniesta. Prima punta Gomez, o punta centrale Gomez o Mandzukic, il croato, o Shevchenko. E punta esterna Ronaldo o Ibrahimovic o Jagoev. Dai gironi ai quarti abbiamo riposato 6 giorni, scrive Angelo, dunque, dunque a chi la tocca la tocca. E dunque il Portogallo è allarmato per la designazione di Shakira, arbitro. Shakira il turco, che arbitrerà per l'appunto Portogallo-Spagna, non è piaciuta ai portoghesi, dicono che è amico del Barcellona e dell'Unicef, sono i portoghesi, probabilmente avrà sentito Mourinho per competenza territoriale, immagino. Poi vediamo chi sentiamo. Sentiamo Capello a proposito degli inglesi, e questo mi sembra significativo, perché fino a pochi mesi fa era lui il CT degli inglesi. Sentiamo. Beh, arrivano cotti, è normale, perché giocano sempre, non si fermano mai. Io ho detto questo negli anni in cui sono stato CT della nazionale inglese, però purtroppo non si possono toccare i calendari in Inghilterra, e quindi arriveranno sempre a queste manifestazioni importanti non al 100% della condizione fisica e anche mentale, perché oltre che si spendono energie fisiche, si spendono anche energie mentali. Vero, non c'è dubbio, è difficile che Capello dica delle cose approssimative quando parla di calcio. Io inserirei Marchisio al posto di Gerrard, scrive Stefano, e Marchisio in effetti è uno che ci starebbe bene come in quell'elenco, forse ci starebbe bene al posto magari anche di Meireles, ma si può discutere evidentemente. Certo, il centrocampo italiano finora secondo me è stato all'altezza di quello della Spagna, cioè certamente il migliore visto in questo europeo. E cos'è che scrive? Eccolo qua, Alfonso Di Carlo, una mail appena arrivata, dice: la Germania è forte, ma è pur vero che ha incontrato avversari modesti. Nell'unica partita impegnativa col Portogallo, il Portogallo ha colpito 2 pali e avrebbe meritato il pareggio. La verità è che la Germania è debole in difesa e noi siamo deboli in attacco, e questa indubbiamente è una buona analisi che corrisponde a quello che si è visto sino a qui. L'Italia ha limiti offensivi non tanto nel costruire occasioni da gol, perché ne ha costruite tante, il problema è che ne finalizza pochissime, a differenza dei tedeschi. I tedeschi sono un po' più vulnerabili dietro, non sono poi così scarsi in difesa, ma certamente l'Italia dà l'impressione di essere più solida dietro, anche se vale sempre il gioco degli avversari incrociati. L'Italia non ha trovato grandi attacchi fino adesso, perché è vero che ha giocato contro la Spagna, per l'amor di Dio, ma la Spagna non ha un grande attacco perché ci rinuncia al grande attacco, e quindi si può discutere. Gabriele, Bologna. Buonasera e grazie dello spazio. Volevo dire, visto che sono anche di Bologna, ho visto, non seguo più tanto il calcio, ma ho visto Diamanti, mi auguro che il CT gli offra un inserimento dal primo minuto, perché mi sembrano 2 cose. Primo, che abbia giocato sempre molto bene, che abbia le idee chiare, personalità, e soprattutto è un aiuto fondamentale alla regia di Pirlo. Posso aggiungere un'altra cosa? Sì, certo. Dopo aver notato che questa telefonata che fa seguito a un'altra di ieri e a molti interventi di questo segno in questo periodo, io mi ricordavo Bologna più cosmopolita e meno provinciale, sinceramente. Non che lei stia dicendo nulla di male, sia ben chiaro, ma me la ricordavo più, ecco, meno provinciale, non so come dire. Poi dica la seconda. L'altra cosa è che noto che molti utenti come me sono comunque dei maleducati, perché nonostante le signorine continuino a dire di spegnere la radio, di togliere il viva voce, continuano a telefonare in questo modo. Maleducati, facciamo distratti, dai Gabriele, facciamo solo distratti. Grazie comunque. Graziano, provincia di Ancona, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, io volevo raccontarvi una storiellina breve. Sto guardando la Schiavone che gioca con una ragazza inglese, no? Allora, per dire che questi inglesi l'hanno presa proprio male, perché a un certo punto la Schiavone ha fatto uno stop al volo con relativo calcio, no? Solitamente chi sta a vedere il tennis, quando un tennista fa un gesto del genere, battono le mani. Mm-hmm. Nessuno, quei musoni, no? Nessuno si è azzardato a battere le mani. Proprio gli brucia. L'hanno presa proprio malamente. Avrà ricordato i fantasmi, anche perché nella nazionale inglese di gente che sia capace di stoppare una pallina a tennis come si deve, poi calciarla al volo, non ce n'è tantissimi. E quindi probabilmente sarà anche un pizzico di gelosia. Non sapevo che la Schiavone avesse anche qualità calcistiche. Graziano, passiamo a Maurizio da Milano, buongiorno. Pronto, Garanzini, buongiorno. Dica. Volevo ritornare al discorso che aveva fatto poco tempo fa, parlando di numero ridotto di falli. E sì. Io credo che, essendo un arbitro anch'io di un altro sport, ma essendo arbitro, credo che le direttive arrivate dall'UEFA siano state molto chiare. I giocatori sanno benissimo cosa vanno incontro e soprattutto gli arbitri sanno cosa e cosa non fischiare. E io vedo che i giocatori, certi falli che da noi fanno veramente nervosire, il tocco che uno cade, aspetta il fischio, qui non arriva e i giocatori non cadono più. L'altro giorno ci sarebbe stato da dire sulla munizione a Barzagli, un'entrata forse sul pallone, la direttiva è che il piede martello va sanzionato col cartellino giallo, non ha detto niente nessuno. Forse questo è, vuole essere un monito forse anche il prossimo anno per migliorare un po' lo spettacolo e la qualità del nostro calcio. Ma dove? Da noi? Ma per l'amor di... vediamo di non fare confusione tra il calcio internazionale e il nostro. Che poi se ti sbagli ad ammonire un giocatore di una squadra importante, una squadra che conta per un intervento dubbio, poi comincia a sentirti le tue. No? Godiamoci gli europei e i mondiali quando ci sono e non illudiamoci di importare i modelli di comportamento di questi tornei in un campionato e in un calcio come il nostro. Cioè, continuiamo per carità a sognarlo se vogliamo, ma non, senza farci soverchie illusioni. Le squadre di club più rappresentate in semifinale sono il Real Madrid che ha 10 undicesimi. In queste semifinali 8 undicesimi del Bayern Monaco, 7 del Barcellona e 7 anche della Juventus. Allora i 10 del Real sono Casillas, Arbeloa, Pepe, Albiol, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Khedira Özil, Coentrao e un certo Cristiano Ronaldo. Sono già usciti, è già uscito Benzema, perché se no arrivavano a 11. E tra l'altro Benzema è uscito abbastanza ingloriosamente da questo europeo, ma perché giocava con i francesi che hanno sbagliato competizione e che marcivano i palloni tra i piedi, perché Benzema vorrei averlo al posto di uno a qualunque delle nostre punte. 8 undicesimi del Bayern Monaco che sono Neuer, Lahm, Bad Stuber, Boateng, Schweinsteiger, Kroos, Müller e Gomez, e sono già usciti Robben e Ribéry. 7 undicesimi del Barcellona che sono Valdés, Piqué, Busquets, Iniesta, Xavi, Fabregas e Pedro, e 7 della Juve, 7 undicesimi della Juve sono Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Marchisio, Pirlo e Giaccherini. Gerry ha chiamato dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Era solo una domanda. Sì. Non era il caso che Pirlo chiedesse scusa al portiere per quello che ha fatto, a grande protesta, si intende, per rispetto? Ogni tanto E se non lo so, e se il portiere che prima cerca di muoversi, di indicarti la parte dove tirare, eccetera, cioè fa le finte a sua volta, eccetera, e poi riesce a parare, lei l'ha mai visto chiedere scusa a un attaccante? Lui ha fatto il cucchiaio quando ha visto il portiere che si buttava sulla destra, se no non lo faceva il cucchiaio. Eh beh, certo. Però se per rispetto, come Pirlo è molto educato, moltissimo educato, sì. Io avrei, se fosse a posto loro, chiesto scusa. Grande protesta, cioè, anche avrebbe fatto più risalto tutto questo. Ma a me sembra che di risalto ne abbia fatto abbastanza, ne abbia avuto a sufficienza. Poi, per carità, si può sempre essere ancora più perfetti di quello che si è. Magari si va lì alla fine e ci si scusa, magari l'avversario le scuse le prende per una presa in giro e finisce male, per quanto educate possano essere le scuse. Io non, sinceramente mi domando perché... No. Il perché della ricerca del risvolto ad ogni costo in questa disciplina, ci sono tanti casi della vita in cui bisognerebbe scusarsi magari. E adesso non scrive, c'è un ascoltatore che scrive, chiama il neurologo, non ci penso nemmeno, questo signor Jerry ha ricamato a parer mio un po' troppo su un aspetto, ma insomma... Neuer, per esempio, il tedesco, ha detto se mi fanno il cucchiaio sul calcio di rigore, a me girano, no, indubbiamente, ma non mi posso arrabbiare. Se invece, qual è la grande rivincita che Neuer dice? E se lo pare un cucchiaio? Se lo pare un cucchiaio, allora sì che Pirlo o Panenka o Totti o chi per lui, allora lo vedo male. Certo, però no. Credo che proprio faccia parte del gioco e che anche quel pizzico di irrisione faccia parte del gioco. Fermo restando che l'esecuzione di Pirlo, a parer mio, non è stata gratuita, nel senso che era proprio un modo per cambiare il corso degli eventi, per cambiare psicologicamente la situazione. Erano 2-1 avanti gli inglesi su quei calci di rigore e ci voleva qualcosa che cambiasse un po' il senso degli eventi. Pirlo ha rischiato l'osso del collo, evidentemente, no? Perché ha fatto questo colpo che non era soltanto un gol, era anche un fattore destabilizzante per gli avversari. È chiaro che ha rischiato, perché per l'appunto questo sta fermo, gli fa segno, gli fa, parando, no? Ha il tempo prima di fargli un certo gesto oppure più gesti, eccetera, e a quel punto non solo hai sbagliato il rigore, ma sei morto definitivamente. Si rischia e ogni tanto va bene, stavolta è andata benissimo, basta. Fabio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, Egregio Garanzini. Avrei una domanda da farle su Pirlo, se la sua memoria è buona. Volevo anche premettere che il rigore cucchiaio di Pirlo è stata per me una sorpresa, perché da Totti uno se lo può aspettare, ma da Pirlo, che ha sempre questo viso estremamente indecifrabile e molto serio, questo gesto è stato eccezionale, appunto per quello. È il vino, cioè il viso di chi bleffa è decisivo. Infatti è stato, secondo me, voglio dire, vale il doppio di quello di Totti questo cucchiaio. Ecco, volevo chiedere, lei si ricorda, io sono un po' nero e un po' azzurro, diciamo, e chi vendette Pirlo, che è un prodotto del operaio dell'Inter, mi sembra, al Milan? Come no? Come no? Chi è che fece questa impresa stratosferica, voglio dire? Cioè il dirigente dell'Inter che lo vendete? Era il 2001, quindi adesso il dirigente materialmente non ricordo, comunque era già da 6 anni l'Inter di Moratti, però non fece un brutto affare, perché guardi che fece un cambio con Guglielmo in Pietro. No, adesso lei forse è eccessivamente critico per difetto di memoria. Ma perché lei Guglielmo in Pietro lo buttava via in cambio di Pirlo? Capisce che... Perché Seedorf, per esempio, che passò anche lui dall'Inter al Milan, ottennero Coco, cioè, non so se rendo l'idea. Seedorf e Pirlo per Coco e Guglielmo in Pietro, cioè, bisogna anche ristabilire i meriti della storia del mercato. E credo che lei abbia la memoria corta, perché invece furono operazioni storiche per il mio. Era l'estate, direi, proprio del 2001. Fabio, grazie. Armando, provincia di Pesaro e di Urbino, buongiorno. Buongiorno, dottor Granzino, ascolto tutti i giorni. Volevo fare una considerazione, cioè l'Italia a me come gioca piace molto, perché si vede che è una squadra propositiva, che si vede che insomma ha un gioco, quello non c'è dubbio. Però l'altra sera con una squadra come l'Inghilterra che proprio non pressava, non passava la metà campo, ha fatto solo due o tre contropiedi proprio così, che ha fatto una parata a Buffon, Cioè, a me sarebbe piaciuto che Prandelli decidesse qualcosa prima per vincere la partita, perché già abbiamo rischiato troppo, secondo me, perché ai rigori è sempre un terno all'otto, voglio dire, non è che uno è sicuro di vincere ai rigori, doveva mettere su qualcuno prima. Un'altra cosa, secondo me, allora, ha portato troppi attaccanti esterni e poco e nessuno centrale. Ad esempio, Balotelli può fare anche centrale, però uno come Destro, che l'aveva convocato, se ci credeva, al posto di Borini lo poteva tenere benissimo, perché Borini non ha mai giocato. Quindi, voglio dire, è un'altra cosa su Diamanti. Diamanti è uno che l'ultima mezz'ora la può far benissimo, e quanto entra si vede che fa la differenza, perché contro l'Irlanda ha fatto il calcio d'angolo per Balotelli. Vabbè, l'altra sera la differenza perché ha ottenuto un calcio d'angolo, un palo. Ha fatto il palo, non l'ha fatto apposta, Armando, io non ce l'ho con Diamanti, ma non l'ha fatto apposta Diamanti a prendere quel palo, No, lui ce l'ha quel tiro lì, perché ce l'ha quel tiro lì, ma non ha tirato quel tiro a giro, ce l'ha. Ma certo, come? Troppi ne fa anche su Benistone così. Sì. Lui ce l'ha. Il problema è che lui ci trova, perché lui tira sempre. Lui tira. Ed è l'unico che quando entra in partita ci mette proprio l'anima. L'unico. Perché gli altri invece sono lì a. Gli ha dato la possibilità da prendere di fargli battere il rigore decisivo, vuol dire che ci crede in lui, perché sennò non gli fa battere il quinto rigore a Diamanti. Ma certo. Voglio dire, capito? Certo, quindi, certo. Secondo me è uno da mettere su mezz'ora dalla fine, anche di più. E poi le partite bisogna chiudere le prime, insomma, perché la Germania non è l'Inghilterra. Germania. Grazie Armando. Grazie a lei Armando. Gianni Latina, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, io volevo dare una considerazione sul signore che ha detto che Pirlo doveva chiedere scusa al portiere. A me sembra una forzatura, perché secondo lei, quando un giocatore dribbla l'avversario e fa di tunnel, ma non è irriverente come aveva fatto il cucchiaio? Non lo so, sì, la sento, Gianni, abbia pazienza. Sì, ho sentito. Non lo so. Purtroppo non c'è nemmeno più donna. Cambiano le stagioni, non c'è più donna Letizia. E io, sinceramente, questo il cucchiaio d'argento forse esaurito, e non riesco a orientarmi in questo campionario di educazioni vere o presunte o mancate. Si sta giocando a pallone, no? E c'è in palio un quarto di finale, una semifinale del campionato d'Europa. Giocano con molta lealtà, non si sono ancora tirati pedate alle spalle, cioè nessuno ha ancora fatto niente di veramente scorretto. E cosa dovrebbero fare? Dovrebbero passare anche dalle orsoline alla mattina a fare un ripasso di buone maniere, se per caso uno si sbaglia a fare una finta su un calcio di rigore, oppure, ma insomma, dai, non, a me sembra che no, che un po' va bene, ma poi non è che possiamo andare dietro a queste stronzate poi oltre un certo limite, no? Per me ho detto così, proprio un pochino fuori dai dentini. Capello ha parlato di calcio scommesse e ovviamente ha risposto a una domanda, e su questo, come su altri argomenti, Capello l'idea è abbastanza chiara e abbastanza dura. Sentiamo. Una brutta idea, brutte notizie, brutte cose. Sono contento che coloro che hanno sbagliato vengano perseguitati. Io sarei durissimo, perché non si possono fare queste cose, non si può accettare che dei giocatori vendano le partite, scommettano sulle partite, e quindi mi auguro che la giustizia sia molto molto severa. È un'immagine molto brutta dello sport italiano, del calcio italiano, è una brutta immagine della nazione che mandiamo all'estero. Sarei durissimo, proprio nella maniera più assoluta. Sporcare lo sport è sporcare qualche cosa a cui i giovani mirano, e quindi diamo un'immagine troppo negativa per coloro che amano questo sport. Bravo, ogni tanto il ripasso dei fondamentali è meglio sentire, sinceramente, è meglio sentire, visto che poi tra pochi giorni dovremo rientrare alla base, no? Come dire, nel nostro calcio, è bene ogni tanto questo ripassare qualche fondamentale, non chiedere più che chiedersi se Pirlo dovesse o meno mandare un mazzo di fiori alla signora Hart. Boscov dice campione, diceva, scrive Alessio da Forlì, Boscov diceva campione è chi vede autostrada dove tutti vedono sentiero, che è una grandissima frase di Vujadin Boscov, e aggiunge Pirlo è uno di questi campioni che vedono autostrada, punto e basta. Grazie Alessio. Franco, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Garanzini. Dica. Una considerazione veloce su quello che sul rigore di Pirlo, se mi è concessa. Lui ha preso tanti di quei rischi a fare quel rigore lì, che poi ci mancava anche che doveva chiedere scusa. È questa. Certo. Per quanto riguarda Balotelli, secondo me, premetto che sono un interista e per me Balotelli è finito come giocatore, come uomo più che giocatore, quando ha buttato la maglietta nella semifinale di Coppa dei Campioni col Barcellona in casa. Madonna, era finito a meno di 20 anni. No, è finito come uomo, non come giocatore. Assolutamente. È finito come uomo e quindi è strano che sia sopravvissuto, no, a questo sacrilegio. Sì, secondo me sì. Da tifoso interista sì. Certo, lo capisco. Però secondo me, oggi come oggi, con questa partita ha una grandissima possibilità, un'opportunità di veramente far vedere quello che vale, e io penso che sia di ricominciare la sua vita da calciatore, visto che quella di uomo era finita comunque quel giorno. No, sta dicendo a lei di ricominciare la vita da uomo, forse. E dimostrare con una prestazione da uomo, da uomo. Da uomo, sì, da uomo, recuperare dei punti. Certo, i punti sulla patente che gli hanno tolto gli interisti quella sera. Franco, la ringrazio per aver arricchito la galleria di oggi, che già sinceramente non era malissimo, questa galleria finale, come scrivono tanti ascoltatori, ma come vedete si può sempre fare ancora un passetto in avanti se li lasciamo scatenare. Maurizio Mantova, ci sorprenda, dica una cosa banale, Maurizio, la prego. No, più banale di così è caduta la linea. Vabbè, non era combinata. Mi stavo dimenticando Nicolino Filippone e il suo... Cosa abbiamo oggi? 26 un 26 giugno di Nicola Filippone nella storia degli europei. Sembra ieri. 26 giugno 1992. Stadio Ullevi di Göteborg. La Germania, campione del mondo in carica, ha la possibilità di portare a casa anche il titolo continentale. L'ultimo ostacolo è la sorprendente Danimarca di Møller-Nielsen, ripescata in extremis al posto della Jugoslavia. I tedeschi partono in attacco, ma trovano sulla loro strada un portiere in stato di grazia come Peter Schmeichel. Sono invece i danesi a passare alla prima occasione, con Johnny Hansen. La reazione della Germania è immediata, ma la Danimarca resiste e verso la fine trova anche il gol del 2-0, che sancisce la conquista del campionato europeo. Lo segna Kim Vilfort, uno degli eroi per caso, artefici di un trionfo che alla vigilia sembrava impossibile. Beh, di buono c'è quest'anno, di buono o di non buono, perché poi anche le grandi sorprese sono sempre un bene per il calcio. Comunque quest'anno non può più succedere, perché né una Danimarca né una Grecia, come accade poi invece nel 2004, possono più vincere questo europeo. Certo, sarebbe più sorprendente se lo vincessero il Portogallo o l'Italia rispetto alla Germania o alla Spagna, perché le gerarchie iniziali erano diverse, ma insomma sia un Portogallo che vanta che ha una signora squadra in più Cristiano Ronaldo, sia l'Italia non sarebbero certamente, pur essendo outsider in questa edizione, non sarebbero come accade quella volta. Grazie di questa puntata esilarante, scrive Rossano da Lucca, giuro che non si è fatto apposta, il merito è tutto dei nostri amici ascoltatori. Buon pomeriggio, grazie a Matteo Comes in regia e a Franco Piattanini in redazione, buon pomeriggio.